Allora, Radio Onda Rossa, ci siamo. Siamo in diretta con Montecitorio. Ciao Cristian, buongiorno. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Allora, descrivici un po' questa piazza, dacci un po' insomma le caratteristiche, la composizione. Descrivici. Guarda, la piazza sta cominciando a riempirsi. Nell'ultima ora si sta cominciando a riempire, ci sono i movimenti per il diritto all'abitare, le reti dei precari, i sindacati di base, e sta cominciando a riempirsi, ormai quasi tutto la piazzetta davanti a Montecitorio sembra piena. E in questo momento stiamo aspettando per cominciare una grande assemblea e aspettare che si allarghi questa piazza e si allarghi anche la piazza dell'indignazione precaria. Sappiamo che fra pochi minuti dovrebbe parlare il Premier Berlusconi, e siamo pronti in questa piazza per farci sentire, soprattutto dopo l'approvazione del pacchetto sviluppo di ieri, che insomma aggrava la nostra situazione, aggrava la situazione di tanti precari e tante precarie nel nostro paese. Bene, senti, in questi giorni insomma avete sperimentato un po', se mi permetto di dire, insomma, che forse la novità magari di questi giorni lì a Montecitorio è che si sono svolte proprio queste assemblee di piazza, no? C'è stata la possibilità di far parlare, intervenire, di far raccontare insomma delle proprie esperienze magari sul mondo del lavoro, dei soprusi che si vivono, anche gente che si affacciava per la prima volta a questo tipo di esperienze? Avete notato insomma una partecipazione di questo tipo? Assolutamente sì, la piazza dell'indignazione precaria, così come era partita grazie ai precari della scuola, che insomma hanno lanciato questo sit-in permanente già da 3-4 giorni, è diventata un po' la piazza, il punto di riferimento delle varie precarietà che ci sono nella nostra città e nel nostro paese. È diventata un punto di riferimento con assemblee permanenti, incontri e connessioni e complicità e cospirazione tra le diverse precarietà. Sono passati precari che lavorano per le agenzie parastatali, i precari della scuola, i precari ieri anche delle agenzie interinali che lavorano per l'INPS, oltre a tutti i movimenti che hanno supportato questa piazza fin dall'assemblea, dalla grande assemblea di domenica. Diciamo, il nostro fine è quella di farla crescere, soprattutto oggi che parlerà il Premier, e continuare questo percorso di indignazione precaria che porti alla costruzione anche di movimenti che poi si incontrino a livello nazionale per esprimere questa rabbia precaria. Noi lo stiamo dicendo ormai da giorni, ormai dallo storico episodio di Brunetta, in cui ci ha accusato i precari di essere l'Italia peggiore. Stiamo dicendo da giorni che se ci fermiamo noi, se si fermano i precari, che sono quelli che producono la ricchezza di questo paese, che producono il PIL, che tutti i giorni stanno sui posti di lavoro, si ferma il paese. Questa è la dimostrazione che è una piazza indipendente, una piazza assolutamente auto-organizzata, può essere anche un esempio riproducibile nel nostro paese contro le politiche di questo governo e contro anche le politiche di austerity. Certo, c'è diciamo un tratto comune che possiamo individuare rispetto all'instabilità politica di alcuni esecutivi in questo momento in Europa. Magari non c'è lo stesso clima di rivolta sociale, no? Pensiamo alla Grecia o anche alla Spagna, in cui abbiamo visto numeri molto molto molto alti. Però c'è questo precipitare della crisi dal punto di vista anzitutto politico, e questo ha un senso immediato di realtà anche nel nostro paese, insomma, e credo sia determinato dall'incapacità di gestire questa fase congiunturale di recessione. Nonostante questo, sembra che anche oggi questo governo insomma resisterà. Assolutamente sì, penso che queste piazze, che stanno esprimendo un protagonismo sociale vero, inedito, soprattutto negli ultimi mesi, citavi la Spagna, dove l'altro giorno sono scesi nella giornata internazionale di indignazione in 300.000 a Barcellona, 150.000 a Madrid, più centinaia di migliaia di persone in tutte le città spagnole, in connessione con i movimenti greci che ormai stanno al decimo sciopero generale proprio la settimana scorsa, stanno esprimendo una volontà, un protagonismo di chi? Dei soggetti che stanno pagando questa crisi, un protagonismo contro le politiche di austerity decise a livello europeo. Quindi in questo momento dobbiamo fare in modo di connetterci a tutto quello che sta avvenendo e fare dei passaggi comuni. Va bene, senti Cristian, al massimo ci sentiamo più tardi. Noi tra poco abbiamo anche un appuntamento telefonico direttamente con compagni del coordinamento precari scuola, quindi andiamo a sentire anche direttamente loro. Grazie, grazie, ciao a tutti. Perfetto, perfetto. infatti okay. In questo momento sta iniziando l'assemblea, sentiamoci, aggiorniamoci da questa piazza che sta crescendo, ricordiamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando di concentrarsi qui per la giornata dell'indignazione precaria, per dimettere dal basso questo governo. Ok, a dopo. A dopo.